Vi siete mai trovati ad una festa in cui non conoscete nessuno oppure in un gruppo di sconosciuti e vi sentite in profondo imbarazzo? È quello che è capitato a Francesco Lorenzi il 10 dicembre del 2007. Ma chi è questo Francesco? Francesco Lorenzi è il leader dei The Sun, un gruppo rock cristiano originario delle parti di Vicenza. All'inizio erano una band rock punk piuttosto famosa chiamata I Sun It's Ours. La trasformazione in gruppo rock cristiano è conseguenza dell'evoluzione spirituale interiore del loro leader, Francesco Lorenzi, che nel 2007, dopo un lungo percorso molto travagliato a livello interiore, approda alla fede e piano piano trascina con sé tutta la band. Questo percorso è raccontato nel libro La strada del sole, l'ho letto tutto d'un fiato, un libro molto coinvolgente. Ma forse tutto questo non sarebbe successo se una sera una ragazza non gli avesse sorriso e non l'avesse accolto con calore. Ma andiamo con ordine. Una sera la madre propone a Francesco di partecipare a un incontro di evangelizzazione in parrocchia. Francesco la guarda con due occhi così, come dire: "Mamma, ma che cosa mi chiedi?" Eppure la madre insiste, tant'è che lui alla fine pensa: "Ma sì, dai, posso anche andare, in fondo non ho niente da perdere." E così si avvia verso la parrocchia, arrivando ad una specie di anfiteatro dove ci sono molte altre persone. A questo punto nel libro Francesco racconta in modo limpidissimo quello che ha vissuto interiormente. Sentiamolo dalle sue parole, in particolare delinea con molta chiarezza tre pensieri che gli passano per la testa in quel momento in cui deve approcciarsi a questo nuovo gruppo, a queste nuove persone. Primo, una volta entrato mi sentii un pesce fuor d'acqua nonostante fossi abituatissimo all'interazione immediata con altre persone. Dopotutto Francesco è abituato a girare il mondo come star del rock, a incontrare migliaia di persone sconosciute, i suoi fan e anche altri. Eppure, trovandosi in un ambiente nuovo, dice che si trova come un pesce fuor d'acqua e dopo ripete ancora che si sentiva molto molto imbarazzato. Secondo, con lo sguardo cercavo nervosamente qualche conoscente, ma nulla, pur essendo nel mio paese, tra le 70 persone presenti, non identificai alcun volto noto. In fondo è quello che facciamo anche noi quando ci troviamo in mezzo ad un gruppo nuovo. Cerchiamo di capire se qualcuno dei presenti lo abbiamo già visto da qualche parte per poterci in qualche modo aggrappare a lui come primo approccio, per sentirci un po' meno in difficoltà, un po' meno imbarazzati. Francesco cerca di fare questo, ma non trova nessuno e anche questo lo lascia in un profondo imbarazzo. Terzo, nel pieno dello smarrimento, la tentazione di sgattaiolare via si fece straordinariamente invitante, ovvero, quando sei imbarazzato, non stai volentieri in questo imbarazzo e allora un modo per uscire dall'imbarazzo è quello di scappare via. È a questo punto che avviene l'inaspettato. Proprio mentre sta per andarsene via, lo avvicina una bella ragazza che gli dice: "Benvenuto, come ti chiami? È la prima volta che ti vedo qui. Che bella sorpresa!" Ma sentiamo il racconto di Lorenzo senza censure. Il fatto che ad esclamare quelle parole fosse una bella ragazza, anzi, diciamolo pure, una gran gnocca, rese il tutto più semplice. Ah, il potere delle donne. Tra me e me pensai: "Beh, come inizio non è poi così male." Scherzi a parte, mi colpì molto il calore di quella splendida accoglienza. È bastato un sorriso semplice e sincero per togliere Francesco dal suo profondo imbarazzo di quel momento. È quello che accade anche a noi. Magari arriviamo ad una festa, in un gruppo di persone nuove e ci sentiamo trasparenti. Non conosciamo nessuno, ci sembra che tutti tra di loro parlino con grande confidenza e noi ci sentiamo esclusi da quel calore e vorremmo che qualcuno venisse, ci desse la mano, ci rivolgesse la parola, ci chiedesse come stiamo, come ci chiamiamo, per aiutarci a tirare fuori da quello stato di imbarazzo così profondo. Perché da una parte vorremmo entrare nel calore di quel gruppo, dall'altra magari non abbiamo il coraggio di buttarci e allora comprendiamo come abbia un valore inestimabile, anche un semplice sorriso, una parola che ci faccia sentire riconosciuti, vivi. che ci faccia sentire che non siamo trasparenti, che siamo importanti. E allora questo cambia completamente il nostro stato interiore. Grazie a quella ragazza, Francesco si sente invaso da una grande serenità interiore e capisce quanto sia importante anche un piccolo gesto di accoglienza sincera. In un paio di minuti aveva conosciuto lo smarrimento e l'imbarazzo e la liberazione da quegli stati emotivi grazie a un semplice e caloroso benvenuto. Credo che sia importante ricordarsi di queste sensazioni, soprattutto nel momento in cui ci troviamo dall'altra parte. Magari siamo in parrocchia, in un gruppo in cui ci sentiamo a nostro agio, vediamo qualcuno avvicinarsi. Ecco, in quei momenti proviamo a pensare a come si può sentire, a come potremmo avvicinarci a lui per aiutarlo ad uscire da quello stato di imbarazzo, per fargli provare quel calore che ci fa sentire importanti, ci fa sentire vivi, riconosciuti, che ci dà la possibilità di sperimentare l'accoglienza in un nuovo gruppo. Lascia un mi piace se vuoi e soprattutto condividi questo video con altre persone. Se questi video in qualche modo ti danno qualcosa, anche poco, falli circolare, magari potranno aiutare anche altre persone. E non dimenticare anche di iscriverti al canale attivando la famosa campanella per ricevere tutte le notifiche dei nuovi video.